È il colmo del pessimismo. Però, diciamo, pessimismo, non riuscire mai a arrivare davanti a Lorenzo. Poi non dir coach perché sembra un pi per il culo, però lo so che devo abituarmi, ma quando mi chiamano coach i ragazzi non mi giro. Quanto è Ecclestone, bisogna avere rispetto per le persone molto anziane, soprattutto quando per l'età non riescono più a controllare le parole. Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio e buon venerdì a tutti. Franco Piantanini, autore di questo programma, Gianmarco Ferronato in regia. Allora, faccio l'uomo del meteo. Oggi a Giacarta, 28 gradi di massima, 38 gradi di massima, 24 di minima, pioggia a Giacarta, Indonesia. Ma voglio sentire qualcosa di un po' più indonesiano. Ecco, così va meglio. Così va meglio. Bravi. Allora, Giacarta, 38 di massima, 24 di minima, clima d'inferno, piove, ci sono i monsoni. Leggo oggi, sparatissima sulla Gazzetta dello Sport, l'Inter è ormai made in Indonesia. Moratti rimarrà l'uomo simbolo, l'uomo immagine, se preferite il cubista di questa Inter, cioè l'uomo simbolo della famiglia, del legame con il passato, ma sarà Tohir, almeno a quanto leggo, ad iniettare denaro fresco, sarà Tohir il vero proprietario dei nerazzurri. 800240024, veniteci a trovare, parleremo anche di molto altro, di nuoto, dei mondiali su cui si alza sipario mentre si abbasserà quello sul tour, secondo una regia perfettamente sincronizzata dal grande fratello televisivo dello sport. Ma tornando all'Inter e tornando a bomba, io mi diverto solo se, come cantano i tifosi, oppure credo solo se, meglio dire, sento Marco Belinazzo del Sole 24 Ore su questo affair tra l'Inter e gli indonesiani. Ciao Marco. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Fammi luce. Beh, allora, leggo oggi, è già fatta. Aspetterei ancora una decina di giorni, insomma, prima di far sentire questo nuovo inno, questa canzoncina indonesiana per i nerazzurri. Quindi vale ancora pazza Inter Amala per il momento? Per il momento sì, siamo in una fase culminante delle trattative, ormai per la verità lo siamo da qualche settimana. L'accordo sostanzialmente è raggiunto da oltre un mese e mi riferisco alla volontà di Moratti di cedere la società. Quello di cui si è discusso in queste settimane ovviamente erano le formule, piani A, piani B, clausole di vario tipo, clausole call, clausole put, che per i meno addetti alle questioni finanziarie non sono brutte parolacce, ma sono delle opzioni a vendere o ad acquistare, su cui si è discusso. Si sta discutendo tuttora. Tra diciamo una decina di giorni sapremo finalmente quale sarà il nuovo assetto societario dell'Inter. Io, Carlo, avevo scritto il 30 maggio parlando di un 80% in questo gioco dell'oca, di queste trattative, si sta tornando in qualche modo a quella prima tappa in cui Tohir voleva e pretendeva la maggioranza, perché investendo molti quattrini voleva anche ovviamente poter gestire in prima persona le cose, comunque con un management di sua fiducia, e stiamo tornando, mi pare, a quella situazione e più o meno a quelle cifre di cui si era scritto, di cui avevo scritto a fine maggio. Ecco Marco, quindi per fare chiarezza, gioco dell'oca da cui si riparte dal via, mi pare di capire. Punto primo. Punto secondo, nessuno, né a livello locale in Italia, né a livello super internazionale del jet set dello sport, nessuno mette il denaro per far comandare gli altri, e questo mi sembra un assioma incontrovertibile nel mondo dello sport e anche degli affari, perché Tohir, mi viene in mente sempre Mourinho quando parlo di queste cose, e sapete a cosa mi riferisco. Nessuno mette i soldi per lasciare il potere in mano agli altri, come ogni proprietario vorrebbe. Allora, 75%, 75% a Toirra, i soldi sono chiari, 300 milioni, dunque è tutto lì, ma mi sembra che manchi una cosa determinante. In ogni contratto che esiste su questa terra, ogni contratto è valido e fa legge quando c'è la... Ci vuole una firma in stin con inchiostro d'oro in questo caso, visto le somme. Io tra l'altro non sarei sicurissimo, non ho riscontri su queste percentuali e su queste cifre, per la verità. Ne ho altri, sempre diciamo sarebbero tali da garantire una maggioranza o comunque a Toir. Non mi va di sparare cifre anch'io, perché parteciperei a un gioco al piccione, insomma. Certo, tiro al piccione, sì. Ma tra l'altro assolutamente fuorviante rispetto a quello che è l'interesse dei tifosi, nel senso che su queste percentuali e sulle somme si sta ancora trattando, si arriverà a limare fino all'ultimo euro, perché di contro ci sono degli impegni ulteriori che le parti si devono assumere, e mi riferisco evidentemente alla copertura dell'indebitamento, al di là di quelle che sono poi gli effetti legali, no? Perché se uno compra una certa percentuale di società deve far fronte nella stessa percentuale ai debiti, ma potrebbe esserci qualche accordo diverso e quindi anche la possibilità magari di acquisire un diverso pacchetto azionario, o piuttosto di poter cambiare gli uomini in maniera più o meno radicale. Insomma, ci sono tanti aspetti che si stanno definendo e che appunto dovranno essere definiti, credo, a breve, nel giro di una decina di giorni, entro fine luglio. Dopodiché sapremo quale sarà esattamente l'assetto dell'Inter, fermo restando, ripeto, che la filosofia di questa operazione è chiara: Toir entra per avere la maggioranza e comandare, Moratti farà da ponte, diciamo, una sorta di cogestione per garantirgli un atterraggio morbido nel calcio italiano e per conservare la tradizione dell'Inter. Vedremo poi per quanto tempo, fermo restando, e poi l'Inter dovrà muoversi sempre nella rotta segnata in questi anni dell'equilibrio dei conti, di un ritrovato equilibrio dei conti, e però cercando di valorizzare il più possibile quelli che sono i suoi asset finora poco utilizzati, e mi riferisco, insomma, al marchio, al brand, alle sponsorizzazioni. Sì, dai quali la Juventus, stando ai dati che ho letto oggi nell'ultima Champions League, per il marketing pool della scorsa Champions League è la squadra che ha incassato più di tutti, cioè 63 milioni e mezzo di euro, sì, più del Bayern Monaco. Marco, sì, adesso c'è il traffico, c'è il nostro amico avvocato juventino Massimo Zampini che scrive su Twitter: l'importante per noi juventini è che Moratti resti operativo, e questa è una cattiveria che... rendo pubblica di Massimo Zampini. C'è il traffico in linea, subito dopo io ti sparo tre domande su argomenti che non riguardano l'Inter ma riguardano, già lo dico, 800 24 00 24. Mentre un'ultima ora, visto che siamo in diretta e visto che questa è cronaca, Moratti ha appena smentito, cioè Toir, dice Moratti, Toir, leggo gli aggiornamenti della vicenda sui giornali, l'incontro decisivo martedì, ma no, dice Massimo Moratti, questo l'ha appena detto, e quindi io ve lo giro così come, e la giro a Marco Verinazzi così come considerazione. Allora, dopo il traffico, tre domande secche a Marco Verinazzi su, lo dico già, Napoli, Juventus e Torino. 800 24 00 24, il vostro numero verde, strade, poi torniamo. Tutti convocati. Allora, 800 24 00 24, il vostro numero verde, io vi aspetto. 349 238 6666, il contatto per i messaggi SMS, come Paolo da Novara che scrive: in Europa arabi e russi, l'ho perso perché sono arrivati nel frattempo molti altri, in Italia gli indonesiani, ma tra poco ve lo rileggo perché nel frattempo sono arrivati altri 14 e me lo sono perso. Tre domande secche per Marco Verinazzo riguardano Napoli, Juventus e Torino, come dicevo. Prima, Napoli, De Laurentiis perché uno così furbo si espone e fa vedere al mondo intero 124 milioni e mezzo di euro, dicendo ce li ho in cassa pronti da spendere? Perché uno così furbo e sgamato, per dire alla milanese come Aurelio De Laurentiis, fa vedere questi soldi? Secondo, Juventus ricchissima, più del Bayern Monaco, il Made in Italy tira 65,3 milioni di euro dal market pool della Champions League. Molti chiedono da dove la Juventus trova i soldi per questo mercato faraonico. Ecco, una parziale risposta può essere questa. Terza domanda: Cairo, presidente del Torino, ha ceduto Ogbonna per 15 milioni di euro alla Juventus e oggi ha acquistato 3% dell'azione RCS per quanto? 15 milioni di euro. Marco Veninazzo, fammi luce. Allora, da dove cominciamo? Dalla Napoli? Da dove vuoi? Dal Napoli. Napoli che nel cuore ti sta, dimmi. Mi mancano 30 milioni, nel senso che il Napoli aveva 30 milioni in cassa, più quelli di Cavani, ci sono altri 30 milioni nel calcolo di De Laurentiis, quindi questi 124 milioni immagino che siano legati all'utile del bilancio 2013 che non è ancora depositato. Ovviamente questo sarebbe un'ottima notizia. Cioè, in che senso, scusa Marco, in che senso mancano 30 milioni? Cioè 124 e mezzo è la cifra reale che il Napoli ha a disposizione da spendere? Per il budget, nel senso che aveva già in cassa 30 milioni più 60 di Cavani, 64 fanno 94, ce ne sono altri 30 che immagino siano frutto del bilancio 2013 che è stato chiuso al 30 giugno ma non è ancora depositato, quindi non abbiamo visibilità su quello, ma probabilmente inutile, e forse per questa cifra, per una cifra importante insomma, è almeno una quindicina, 15-20 milioni, e lì ecco il budget complessivo dichiarato da De Laurentiis. Quindi la buona notizia è che ci sono questi soldi, che c'è un ulteriore bilancio inutile. La cattiva notizia è che è stato dichiarato al mondo e quindi ora tutti chiederanno qualcosa in più quando ci si siede a trattare, e questo mi lascia abbastanza perplesso. Però, conoscendo il presidente del Napoli, che è un uomo che è istrionico, ha tanta fantasia, immagino che ci sia una logica in questa follia apparente, e quindi di aver dichiarato quanti soldi si hanno in cassa, e quindi mi immagino insomma bei colpi a partire dalla prossima settimana. Sì, è per questo che mi domando come mai uno furbo come De Laurentiis faccia vedere al mondo: guardate che io qua ho i soldi, poi magari ne hai ancora di più e ne puoi investire ancora di più, e quindi si ha dichiarati meno. Una spacconata, mettiamola così, una spacconata faccio di Aurelio. Faccio difficoltà a trovare una ragionevolezza dietro questa dichiarazione, e quindi proviamo diciamo a spiegarla con come abbiamo appena fatto insomma. La ricchissima Juventus, Marco. La Juventus ha incassato quasi 65 milioni dalla UEFA, e questa somma dei premi 2012-2013 riguardano tra l'altro sia il market pool, quindi la quota legata alle reti TV, che i premi incassati per gli ottimi risultati che la Juve ha ottenuto in Champions. E sia la Juve che il Milan, che ne ha incassati una cinquantina, che sono arrivati prima e quarta nella classifica 2012-2013, devono ringraziare il rigore sbagliato da Michael Swell nei preliminari della scorsa Champions League, perché in quel modo, garantendo questo scriteriato colpo, l'eliminazione dell'Udinese, hanno fatto sì che Milan e Juventus appunto hanno potuto dividersi in due, non in tre, la torta dei diritti TV collegati appunto alla Champions League, dei TV nazionali. Questo in sostanza è il market pool. Quindi l'anno prossimo Napoli e Juve si augurano evidentemente che accada lo stesso con il Milan, e che quindi il Milan non acceda alla Champions per poter incassare di più. Avevamo la terza domanda. Torino-Cairo. Allora, Torino-Cairo, no, è soltanto, è semplicemente una suggestione. È una suggestione, è semplicemente una molto, molto forte, sicuramente questo parallelo, questo incrocio tra ricavi calcistici e investimenti azionari non farà contenti i tifosi in Granata, perché insomma speravano forse in un impiego diretto nel calciomercato del Torino, che immagino comunque ci sarà, però ci può essere insomma una suggestione per non influenzare il mercato, visto che siamo una radio istituzionale. Non diciamo che magari, non so, Cairo potrà vendere qualcun altro per comprare altre quote di RCS. Marco, semplicemente registriamo questa suggestione. No, lontano da noi fare delle ipotesi bislacche, no? No, no, no, ci può anche stare, insomma, ma credo che Cairo, insomma, abbia in questo momento la possibilità di rinforzare il Torino al di là dei suoi investimenti nel mondo dei media. Grazie Marco. Grazie Carlo, a presto. A quando Toir inchiostrerà, Moratti meglio, inchiostrerà quel contratto sottoposto dall'indonesiano, cosa che, preme ricordarlo, come ha fatto ora Marco Bellinazzo, non è ancora avvenuta, cosa che Moratti ha smentito dicendo: ma cosa state dicendo? Cosa state favoleggiando? Incontro decisivo martedì, ma neanche per idea, si temporeggia. 800240024, adesso voglio sentire voi e anche leggere i vostri sms, come quello di chi non si firma ma vuole ritornare sull'argomento Tour de France, cosa che faremo naturalmente anche lunedì e da tutti i prossimi appuntamenti, scrivendo in maniera maliziosa: ma quello là con la maglia gialla, Froome, che era andato in crisi di fame, leggera crisi e nessun problema per quella maglia gialla che sembra avere tatuata addosso, neanche infilata addosso. Ebbene, nessun problema per lui sull'Alpe d'Huez, leggera crisi di fame, zuccheri presi dal suo fidato scudiero che, insomma, che potrebbe vincere il tour anche da solo, cioè Richie Porte. Zuccheri presi dall'ammiraglia e poi dati al capitano, e quindi distacchi ridottissimi. Tour de France in banca, nella banca keniana o inglese o non so di dove sia, di Chris Froome. A proposito di calcio ed economia, oggi la più bella che ho letto su Repubblica ad esempio è stata quella di Christian Benke a proposito di mercato 2.0, del mercato del futuro. Christian Benke, attaccante belga, rivelazione dell'Aston Villa nella scorsa stagione, rivelazione della Premier, 22 anni, che si mette all'asta su eBay. Questo è il futuro, amici miei. Per tirarlo in quel posto al suo odiatissimo procuratore, dice: non voglio più arricchire il mio procuratore, mi metto all'asta su eBay e il ricavato, una parte del ricavato la do ai tifosi dell'Aston Villa che mi hanno sempre sostenuto e gli aiuterò a pagare le trasferte. Ebbene, Benke si mette all'asta 500 sterline l'offerta di base, scrive solo un po' usato, per usare il linguaggio, per adoperare il linguaggio degli utenti di eBay, soltanto un po' usato, astenersi tifosi perditempo del Tottenham, che, perché io tifo Arsenal, scrive Benke. Scrive anche: consegna della merce su un furgone privato, ma non garantiamo sulle condizioni del prodotto all'arrivo. Ebbene, questo è il mercato 2.0. 800 24 0024, invece, è il nostro numero verde. Ivo Venezia, buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie per la convocazione. A lei. Allora, intanto una battuta all'amico avvocato juventino. Ricordo che dall'operatività di Moratti, io sono interista, abbiamo vissuto noi interisti un bellissimo campionato, abbiamo visto vivere un bellissimo campionato alla Juventus. Detto questo, sì. E non dico quale, detto questo... No, ma Ivo, ma lo sanno tutti, no? Perché lei mi vuole male, perché lei sa quanta gente telefonerà dopo questo, all'800240024, innescando la maxi polemica. Siamo al 20 di luglio, ma invece io volevo dire un'altra cosa. Indonesiano, giamaicano, russo, tedesco, americano, italiano, che sia il prossimo acquirente. Chi se ne frega? Chi se ne frega, direi io, perché l'importante per me personalmente, ma credo per molti tifosi dell'Inter come me, è che abbia le idee chiare, una pianificazione finanziaria che stia in piedi, un progetto che porti a dei risultati. E io direi, ma la comprasse Aurelio De Laurentiis l'Inter, perché è un modello che secondo me va preso a riferimento per la sua furbizia, ma per la sua abilità di salvaguardare il patrimonio societario, valorizzare quello che ha e reinvestire rafforzando. Cavani lo dimostra. Questo. È vero, ha ragione, concordo, anche se mi resta questo dubbio nel cervello: perché far vedere tutti i soldi al di là della spacconata? molto cinematografica di Aurelio De Laurentiis, perché far sventolare quella mazzetta sotto il naso degli interlocutori del mercato, questa non l'ho capita, ma la capiremo probabilmente nei prossimi giorni, visto che De Laurentiis è uno estremamente furbo, lei ha ragione, estremamente abile, e ha ragione nel gestire la questione Napoli. Fabrizio Torino, buongiorno. Buongiorno Carlo, sono convocato. Guardi, io provo a dare una risposta alla sua domanda. Su cosa? Su De Laurentiis, sul presidente del Napoli. Sì. Guardi, io non so se sono furbo come lui, però qualche anno fa ho comprato un immobile e nel momento in cui l'ho venduto ho fatto sapere di averlo venduto in maniera tale da avere i soldi liquidi. Non so se questa è la strategia, ma potrebbe essere quella di dire io pago comunque, magari non ci sono contropartite, ecco, potrebbe magari essere quella. Non so se è troppo fantasiosa, però io ho fatto così e il costruttore all'epoca, insomma, si è fatto attrarre da questa mia disponibilità. Può essere una lettura interessante. Potrebbe essere quella di dire i soldi ce lo cash per chi li vuole, ovviamente. Esatto. Cercando di negoziare sempre a ribasso, ecco. Ma chiaro, faccio vedere i soldi, io ce li ho qui, io sono ricco e i soldi ce li ho in tasca, se volete trattiamo, però così facendo lei mi insegna anche che, insomma, io non ho mai avuto niente in vita mia, quindi non ho esperienza di trattative, però lei mi insegna anche che ci si espone al gioco al rialzo dei competitors. Infatti mi sembra che Albiol non sia stato pagato pochissimo, riserva fissa nel Real Madrid. Mi sembra che gli sconti su Julio Cesar, che inizialmente erano stati prospettati, poi sono stati ritrattati. E dunque è sempre nel mondo degli affari, io credo, un gioco abbastanza pericoloso, quello di scoprire le carte, di giocare a carte scoperte in questo modo. Pierluigi Milano, buongiorno. Poi andiamo con la borsa, sono già in ritardo. Pierluigi, dica. Buongiorno, sento un'informazione. Visto che il Napoli è pieno di soldi, l'Inter sta vendendo, cioè Moratti sta vendendo l'Inter, tutte le squadre sono piene di soldi, vorrei sapere una cosa: la famosa legge spalma debiti per i debiti delle squadre di calcio è ancora in vigore oppure no? Ah, non lo so io, ma non ho idea, perché lei sa benissimo meglio di me come le leggi qui, come i decreti vengono abrogate a seconda dei regimi di convenienza di chi ci sta dietro, quindi non so se la... penso sia ancora in vigore, così a memoria, però decreti abrogativi sono all'ordine del giorno. Dunque ci fermiamo, grazie per Luigi, ci fermiamo per la borsa, siete sempre e tutti convocati su ogni argomento sportivo, dalle 14 alle 15, 800 24 0024. Tutti convocati. E torniamo in onda, 800 24 0024, per le vostre telefonate. Abbiamo molti altri argomenti da sottoporre alla vostra attenzione, chiamala così. Maurizio Caserta, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io voglio parlare del Milan e voglio che lei mi faccia luce su una questione, la questione del andiamo mercato. Andiamo bene, io faccio luce, andiamo bene. Sì, necessariamente, perché io ho delle suggestioni da sottoporre. Allora, Milan ha incassato, come ha detto il dottor Bellinazzo, 50 milioni dall'UEFA, con superamento della fase a gironi, in Champions. Ha annunciato il pareggio di bilancio, superando i preliminari di Champions, ha buone possibilità di superare nuovamente la fase a gironi, perché oltre non possiamo andare con questa squadra. Non spende a livello della Fiorentina o della Roma, che sarebbe già qualcosa di, per noi tifosi ormai abituati a pane e cipolla, sarebbe qualcosa di eccezionale. Ma neanche a livello del Chievo, non ha neanche la forza di spendere 1 milione e 2 milioni. Allora, suggestione, non è che Berlusconi sta pensando di rientrare tutto quello che ha speso e poi vendere la società? Questa è una domanda che le sottopongo. Una suggestione. Ma cosa mi vuole sottopongo? Ma secondo lei, Maurizio, io so rispondere a questa domanda. Allora, sono almeno 4 anni, o 4 stagioni sportive se preferite, che rimbalza questa voce che viene immediatamente smentita da Mediaset, dall'entourage di Berlusconi, da Mediaset, dalla Fininvest, eccetera. Berlusconi non ha nessuna intenzione di vendere il Milan e quindi ci atteniamo alle note ufficiali, no? E cos'altro vuole che le dica? Quello che posso dirle è che il Milan è in pareggio di bilancio e non ha denari da spendere in questo mercato. Lo vediamo perfettamente anche stando ai fatti. E cioè, i denari possibili arrivavano dalla cessione di El Shaarawy giustamente è stato trattenuto, anche perché non era il momento di venderlo dopo la mezza stagione non brillantissima, l'ultima mezza stagione non brillantissima che ha fatto, e dunque il Milan sta cercando di fare con quello che ha, cioè abbastanza poco. Ha preso Poli e Saponara, che non sono esattamente in questo momento i campionissimi che ti risolvono la vita, come non lo è onda casomai arrivasse, è stato rifirmato Robinho perché non, obiettivamente non è stato trovato nessun acquirente né al di qua né al di là dell'oceano, e dunque così stanno i fatti. Poi altro non le so dire, mi attengo alla cronaca e mi appello al quinto emendamento. Facoltà di non rispondere, eh? Maurizio, siamo d'accordo? Andiamo bene così? Molto bene. 800240024. Ragazzi, fatemi riascoltare una delle perle della settimana, oltre al resto, per introdurre la prossima ospite e per introdurre un altro argomento. Però voglio riascoltare quel tifoso della Roma che è stato preso da una pallonata in faccia di Borriello. Magico sinistro di Garcia. Marco Gonini, che è successo? No, perché ti sei ferito? Gli allenamenti e stavano facendo i tiri. Marco Borriello ha tirato una gran pallonata e mi ha preso a me. Invece di prendere la porta è sempre il solito. Accettare tutto di questa vita, no? Sia le sconfitte che le vittorie. Purtroppo non siamo arrivati a questa Olimpiade in uno stato di forma adeguato, adesso posso dirlo, perché comunque io sono una persona che fin quando non tocco per l'ultima gara difficilmente mette in dubbio comunque il suo stato di forma, no? Perché comunque con la testa si cerca sempre di andare oltre. Abbiamo cercato di voltare pagina dopo il 400, però insomma se oggi non sono riuscita ad abbassare il tempo neanche di ieri in semifinale, un motivo purtroppo c'è ed è appunto legato al stato di forma che non pochi hanno avuto fino adesso. Non so se ad Alessia Filippi piacciono gli U2 o U2. Per dirla come deve essere detta, non so se le piace Breathe, perché è il respiro che il nuoto italiano cerca ai mondiali di Barcellona dopo il fallimento, il naufragio di Londra dell'anno scorso, fallimento e naufragio olimpico. Ciao Alessia, sua ciao, maestà, ciao. Che commenterà questi mondiali per Eurosport. Dunque, Alessia, prima cosa, la pallonata di Borriello. Visto che tu sei una stratifosa romanista, hai sentito guarda, cosa ha detto il tifoso preso in faccia? Io non l'ho sentita da nessuna parte, quindi non ho capito neanche bene cosa sia allora, successo. Te la spiego io. Allora, Borriello, allenamento, partitella, spara un sinistro micidiale, ovviamente non prende la porta, finisce sulla faccia di un tifoso che Garcia dice, ma Borriello ha la dinamite nel piede sinistro. Il tifoso ribatte, come hai sentito, ho preso la pallonata da Borriello, però pigliasse una volta la porta sarebbe meglio. Vabbè dai, sono cose che capitano, possono succedere, non diamo la colpa a Marco assolutamente. No, sia salvo Marco Borriello e Totti e chi per esso è da Roma forever, Alessia? Beh, io sono romanista, quindi difendo sempre i giocatori della Roma, anche quelli che sono stati da Roma. Anche quelli che non prendono mai la porta. Vabbè, questo lo sa tutto il mondo che tu sei romanista. Parliamo di nuoto. Allora, l'Italia per rifarsi il look o per prendere il respiro come cantano gli U2 dopo le magre o le rughe, se preferisci, di Londra. Allora, andiamo ai mondiali con la donna simbolo, cioè Federica Pellegrini, che torna al dorso, cioè torna alle origini, torna alla sua infanzia, come ha detto nell'ultima intervista che ad esempio leggo oggi sulla Gazzetta dello Sport, con le speranze vere del nuoto italiano che sotto l'onda della Pellegrini si chiamano Paltrinieri, Ilaria Bianchi e Fabio Scozzoli. Hai detto tutto tu, tranne magari, ecco, io punterei su un altro ragazzo, Paltrinieri, comunque fenomenale, viene da un campionato europeo dell'anno scorso dove ha stravinto, comunque un quinto posto all'Olimpiade, giovanissimo, ci sarà anche lui, diciamo, tra i preferiti, tra, diciamo, quelli più concreti che potrebbero farci sognare, tra virgolette. Senti, domanda banale, però la si fa a tutti i grandi campioni che passano dietro al microfono. Lo si è fatta a Vialli, la si fa a Maradona quando ha lavorato anche per Sky, lo faccio anche ad Alessia Filippi. Tuo debutto in cabina di commento con, sì, con Eurosport, come si sta dietro al microfono? Io lo so bene, tu come ci stai? Allora, per me diciamo che la prima esperienza in assoluto, l'ho fatta una più piccolina di una sola giornata 2 anni fa, sempre con Eurosport, sono loro che mi battezzano, mi portano al battesimo, se possiamo dire così, ma io sono molto contenta, forse è quello che voglio fare io nel mio futuro, poi diciamo meglio chi meglio di me può descrivere magari un'emozione quando si può vincere un mondiale, ecco, si può vincere una medaglia olimpica. Avendolo vissuto magari riesco a trasferire al pubblico le emozioni che ho provato io e che può provare un atleta. Sì, non è che vai anche tu da Santoro come la Granbassi, come Marchi Granbassi che vuole dichiaratamente fare questo mestiere. No, diciamo che ora iniziamo a livello sportivo, su questo campo. Ma dai, non c'è tantissima differenza tra lo sport e la politica, come io sostengo ormai da anni. Entrambe sono le cose che più appassionano gli italiani, che più gli toccano gli affetti più intimi, gli toccano nella pancia. Comunque, come dici tu, una passione, assolutamente. Brava. Senti, Sua Maestà, chi sarà la prossima superstar del nuoto mondiale? Perché dopo Phelps il nuoto ha bisogno di un nuovo re o di una nuova regina? Ma sicuramente ce ne sono già tanti, ma Phelps ha praticamente annullato tutti quanti. Con la mancanza di Michael Phelps magari vedremo sempre un Lochte che farà il suo solito, vincerà sicuramente tantissimo, anche se si è preso un anno di pausa, è in formissima. E poi rimaniamo sempre diciamo in America, sempre Missy Franklin, e comunque ha un talento pazzesco. Sì, talento pazzesco, ed è la nuova avversaria, in questo caso sembra amica, visto che si scambiano email, non so, messaggi su Facebook, queste cose con la Pellegrini. Sentivi, Alessia, io dopo i microfoni di Eurosport vorrei ospitarti dietro questi microfoni di Radio 24 un giorno che passerei da Milano. Okay, se no vengo io a Roma, non è un problema. Va bene, perfetto. Vengo a vedere Borriello che spara cannonate in tribuna e poi ti chiamo. Andiamo insieme. Ciao Alessia, un abbraccio. Dietro, io non voglio la pallonata, noi ci mettiamo dietro. Noi ci mettiamo in tribuna centrale, che magari sì, lì almeno non arriva. Ciao Alessia, buon lavoro a Eurosport. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Grazie ad Alessia Filippi, 800 24 00 24, su il sipario, sui mondiali di nuoto che ci daranno compagnia in quest'estate dello sport, visto che si sta spegnendo, o si è già spento, il Tour de France. A proposito di Tour de France, prima un ascoltatore scriveva via sms 349-238-6666, ma ieri hanno sbagliato, hanno dato a Froome la pasta asciutta che aspettava il meccanico, visto che è andato in crisi di zuccheri sull'Alpe d'Huez. Non so se sia una cattiveria, a me pare di sì. Voi che dite? Ci sentiamo dopo il traffico. Tutti convocati. Torniamo 800 24 00 24, tra poco parliamo anche di basket, come facciamo e faremo per sempre ogni venerdì, almeno, anche gli altri giorni. Devo leggervi questi due messaggi perché sono belli. Primi anni 70, un bimbo dietro la porta, tira Gigi Riva, gonfia la rete, bimbo in ospedale con un braccio rotto, Gigi regala una maglia. Ciao Cristiano, questo è un messaggio 349-238-6666 direttamente girato a Gigi Riva. Altro messaggio: vuoi sapere come finirà il tour? Froome stravincerà il tour. Il tour stravincerà con nuovi ascolti e nuovi sponsor africani, e i campioni di sangue di Froome verranno trovati positivi tra 7-8 anni, scrivi Axel da Verona. Allora io dico, ne abbiamo parlato per tutta la settimana. Il nuovo compagno dello sport è il sospetto di fronte ad ogni grande impresa sportiva, ad ogni impresa ai limiti dell'umano. Sospetto che sostituisce lo stupore del fanciullino di pascoliana memoria. Ebbene, lo sport di oggi è questo. Detto ciò, io sono una strenuo sostenitore del principio legale della presunzione di non colpevolezza. Poi i sospetti miei personali, cioè io me li tengo, però principio di non colpevolezza, dunque ciascuno è innocente fino a prova contraria, con onere della prova a carico dell'accusa. Detto questo, Froome e Bolt e tutti i campionissimi che volete hanno diritto di andare a testa alta, di guardare tutti negli occhi, di spremere ogni quattrino possibile agli sponsor fino a schiacciante ed inequivocabile prova contraria. Matteo Milano, buongiorno. ciao Genta, senti, a proposito di sospetti, volevo parlarti di Toir e Moratti. Io ho però la netta sensazione che è già stato tutto fatto. E te lo dico. No, manca la firma, Matteo. Manca la firma. No, guarda, credimi, io sono un tassista e le vocine, sai che in taxi le vocine si sentono perché carichi gente. È una netta sensazione che è già stata fatta, quindi secondo me la tengono ancora schiscia, perché lo dico in milanese, perché sennò sai, ci vuole calma per i passaggi di proprietà, che giustamente Moratti, cioè, non è che lo lascio dalla sera alla mattina così, ma secondo me è già stato tutto fatto, non alle cifre che dicono adesso, non all'80%, ma piano piano, graduale. Io ho questa sensazione, però ti dico, vocina così. Lo so, ma spesso le vocine di corridoio sono attendibili, le vocine di taxi sono attendibili. Io mi devo, per cultura professionale, mi devo attenere alle notizie dei colleghi che ne sanno di più. Sono pur parlé, però... Ma certo, nei pur parlé c'è sempre un fondo di verità. Esatto. È come quando sapevo che Mazzarri già veniva a Milano da aprile. Questa la sapevo anch'io. Anche se quindi, non faccio purtroppo il lavoro che fai tu, che credo sia molto interessante. Sì. Ok, va bene. Grazie Matteo. Ciao. Comunque io mi attengo a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che questa trattativa la segue e ne sa credo più di ogni altro fin dagli albori, fin dalle origini. Quindi la proposta degli indonesiani è sul tavolo di Moratti, si attende una firma, non tutti sono d'accordo, in particolare pare non è d'accordissimo Milli, moglie di Massimo, nel cedere questa quota di maggioranza dell'Inter, però a quanto ne so io e a quanto dice Marco Bellinazzo, di cui ripeto mi fido ciecamente, manca un aspetto essenziale di ogni contratto, e cioè la firma di colui che deve accettare. Stefano, provincia di Fermo, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo esattamente dire una cosa. Lei ha fatto una presentazione sia sul Tour de France, che è inutile fare il processo alle intenzioni su ogni cosa, ma questo vale anche per l'aspetto del calcio. Cioè, io volevo parlare del Milan e indicare che qualche volta è necessario essere coerenti nei discorsi e nel rapporto. Si parla di equità economica, di società che dovrebbero essere virtuose, poi gli stessi tifosi vorrebbero che le società si indebitassero per acquistare campioni, quando Galliani, che credo sia in assoluto il miglior mercante del calcio, ha portato Kakà, nessun milanista, nessun giornalista conosceva. Thiago Silva idem, Pato è la stessa identica cosa. L'anno scorso ha fatto un'operazione, secondo me, delle migliori arti diciamo particolari, occulte. Ha portato Balotelli al Milan, quindi lasciamo lavorare chi sa lavorare in quel modo e in quel settore nelle migliori condizioni. Poi Stefano, vedremo le campagne acquisti. Lei ha ragione, ma insomma sappiamo che Galliani sia un maestro in questo tipo di operazioni. Ma si immagini cosa avrebbe potuto fare con 40 milioni di euro che potenzialmente potevano arrivare dalla cessione dei Sharawi in tasca, poteva andare a comprare a rate anche Messi, secondo me. Ma comunque, al di là di questo, è ovvio che i tifosi chiedono sempre di più, è ovvio che c'è questo circolo vizioso più che virtuoso che sta nel fatto che per vari motivi si debba cercare il colpo ad effetto. La sensazione è che il Milan in queste condizioni, nelle condizioni attuali, non possa andare a prendere né Pato, né Kakà, né Thiago Silva del prossimo futuro. Allora, Stefano Valenti, amico e collega che ben conoscete, ricorda giustamente che agli europei alle 19:15 di stasera, europei di basket, agli europei under 20 si gioca il quarto di finale tra Italia e Lituania. Non solo calcio. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in dispenser on time. E voi sapete benissimo. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao Carlo, Bene sentirti tornato in studio, ok? Eccomi qua, presente. Senti, coach, io voglio parlare con te non del disastro ferroviario di Monroe, Virginia. Storia, beh, mi viene a dire bellissima, ma una storia tragica, ma vera dell'America che tu canti. Ebbene, mercato NBA mai così scoppiettante, altro che il market NBA, altro che quello del calcio italiano. Bargnani e Meta World Peace, ex Ron Artest a New York, Belinelli a San Antonio. A proposito, Belinelli ha ottenuto il pass dai San Antonio Spurs per disputare gli europei con la nazionale italiana, e questa è una notizia fresca. Howard a Houston, i vecchi a Brooklyn per provare a vincere subito. Pierce, Garnett, il cuore di Boston, più Jason Terry. Ebbene, questo mercato NBA che ci appassiona. Well, io di tutti questi tu hai citato una cosa molto bella, che San Antonio Spurs ha dato permesso a Marco Belinelli di giocare in nazionale. Bene per le Spurs, bene per Belinelli, bene per la nazionale, perché guarda caso tutti i giocatori che hanno giocato nella nazionale l'anno scorso sono migliorati quest'anno. C'è Daniel Hackett, per citare uno a caso, Aradori, Datomi, che finisce nell'NBA, e quindi avrà un beneficio Marco da tutto questo, pure Bargnani andare in Knickerbockers, che aveva proprio bisogno. Poi hai detto tu, Bargnani alla grande mela New York City, e lui troverà, secondo me, nuove energie, sarà veramente importante, non avrà veramente il peso di tutta la franchigia sulle spalle, non avrà l'etichetta del primissimo scelta e quelle storie lì. Sarà Andrea Bargnani, ottimo giocatore, punto, basta, in cerca di rivincite. È chiaro che tu hai detto New York scoppiettata in questa fase qua, perché non potevano lasciare Kevin Garnett e Paul Pierce finire a Brooklyn Nets senza firmare sia Bargnani che Ron Artest, detto with Meta World Peace. E tutti i giornali americani, tutti i siti internet, come tu sai benissimo, stanno parlando del proprio grande derby fra queste due squadre, una da Brooklyn i Nets, una da Manhattan proprio i Knickerbockers. Coach, ovviamente tutti abbiamo un grande sogno e una grande suggestione, cioè Belinelli erede, ripeto, sarà azzurra ai prossimi europei perché c'erano problemi assicurativi, ma San Antonio ha dato il suo benestare. Tutti sogniamo e tutti vogliamo immaginare Belinelli come il dopo Ginobili. Io penso che lui abbia questa possibilità. Poi non dimentichiamo che lì a San Antonio c'è il grande coach Greg Popovich, uno che ci crede tanto nei giocatori non americani, 7-8 squadre quest'anno che non nati negli Stati Uniti, oppure anche come Neo, che ha giocato qui a Treviso e finito con loro, quindi lui crede molto nel basket fuori degli Stati Uniti. Quindi Belinelli non va lì a un allenatore scettico che dice ma no, non è un americano quindi non è bravo, quindi lui ha anche questa credibilità. E Belinelli sì, il prossimo Ginobili assolutamente. Coach, ci sentiamo venerdì prossimo anche d'estate, eh? Ok Carlo, curati bene, ok? Grazie coach, ciao, ciao. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, grazie Dan Peterson. Allora ragazzi, ci sentiamo a questo punto lunedì, ci diamo appuntamento dopo il GR delle 14 di lunedì, quando avremo la certezza che avremo la carta che canta di Froome vincitore del Tour de France, quando sapremo, e questo mi interessa in maniera particolare, chi, perché è un gran premio cruciale, chi avrà vinto a Laguna Seca. Ricordo che si corre alle 23 italiane di domenica, ovviamente io farò il tifo per Valentino Rossi. Io credo che Marquez sarà il prossimo campione del mondo del moto mondiale, scavalcando addirittura Valentino Rossi nell'albo d'oro, perché ricordiamo che Valentino si è preso un anno di studio prima di vincere il moto mondiale nella classe regina. Ebbene, quando avremo i primi risultati del mondiale di nuoto, quando magari l'Inter sarà passata a Toir, ne dubito, l'ha detto Moratti anche oggi, martedì incontro decisivo, ma che cosa state dicendo? Quando avremo visto altri gol dell'estate? Quando Borriello magari avrà tirato un'altra pallonata in faccia ad un tifoso, e anche questo sarà argomento di discussione. Quando la Fiorentina magari avrà preso Verratti, si parlava anche di questo oggi dopo la cessione di Jovetic al Manchester City. quando saranno state fatte un sacco di altre chiacchiere sul mercato, ma credo pochi affari, perché anche nel weekend presidenti e procuratori, a cominciare da Mino Raiola, chissà dov'è in questo momento. Magari cerchiamo di rintracciarlo, Franco Piantaneda, autore di questo programma. Magari cerchiamo di rintracciare, compito per la settimana prossima, rintracciare Mino Raiola, perché già mi manca. Non so dove sia. L'altro giorno Alberto Costa su Corriere della Sera scriveva in maniera molto provocatoria: serve Mino Raiola presidente della Federcalcio, perché lui sa come si fanno gli affari, se non della Federcalcio almeno della Lega. Ebbene, rintracciare Mino Raiola con urgenza, chiamato urgente da Radio 24 per il principe dei procuratori. Quando sarà successo tutto questo, ci risentiamo lunedì dopo giornata delle 14. Grazie al suddetto Franco Piantaneda, Gianmarco Ferronato in regia. Grazie a tutti, buon weekend.